Effetto Mondo. Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Die AfD steht gegen alles, was uns als CDU ausmacht. Allora, ascoltatori, state tranquilli perché adesso vi traduciamo tutto. Giulia Crivelli, ciao, buongiorno. Sì, era la voce, direi, veramente mesta di Annegret Kramp-Karrenbauer, che anche in patria viene chiamata AKK, e non è così. Gli tedeschi sono un po' diversi dagli americani, non fanno questi acronimi normalmente. Gli americani hanno JFK e Buttigieg. Esatto, Buttigieg. Mentre, insomma, per lei, però il nome è lungo anche per loro, sì. E insomma era Annegret, ex, a questo punto, dopo soli 14 mesi, ex numero uno della CDU. L'avete sentita mentre in 10 minuti di discorso dava le sue dimissioni, e qui diceva: non è possibile alcuna collaborazione, non ci può essere una situazione in cui stiamo insieme, Zusammenhalt, stare insieme, né, e questo è molto interessante, né con l'AfD né con la Linke, cioè tutti abbiamo pensato, esatto, i due estremi, che fosse, perché più tardi lei ribadisce che la vocazione della CDU, che naturalmente in questi anni, una volta era il primo partito tedesco, poi è diventato uno dei tre, poi adesso ne sono nati tanti altri, soprattutto sono rinati i Verdi, però lei diceva proprio: la nostra vocazione è essere un Volkspartei, ecco, cioè un partito del centro, veramente. Ma cosa può essere successo? Perché questo ritiro di questa diciamo candidata, che ormai era più di una candidata, cioè credo, era il perno, sì, che doveva succedere alla credo Merkel. Che questa delle elezioni in Turingia sia stato non la goccia, ma la goccia gigantesca che ha fatto traboccare un vaso che era già un po' pieno, nel senso che in questi 14 mesi di leadership, innanzitutto si sono un po' deteriorati i rapporti con Angela Merkel, che comunque aveva un'idea di partito diversa da quella di Kramp-Karrenbauer, che è molto più conservatrice, anche se è più giovane, questo è un po' paradossale, poi lei è molto cattolica, su certe posizioni intransigente, quindi questo, le è mancato il sostegno probabilmente di Angela Merkel, che a me sembra molto stanca di fare la mutti della Germania, credo che non veda quanti l'ora anni di... sono ormai che... sono quattro cancellierati da 5 anni ciascuno, quindi e poi le lotte interne al partito, questa è una cosa che noi conosciamo molto bene, in Germania un pochino meno, e diciamo che quella della Turingia, forse tra le righe, Kramp-Karrenbauer l'ha definita un po' un'imboscata che non avrebbe mai dovuto succedere, e quindi lei ha tratto le sue serissime conclusioni, e quindi addio. E questo è sulle prime pagine di tutti i giornali tedeschi. La scelta delle foto è un po' diversa, come vi ho detto, vi ho accennato, ci sono tante analisi di quello che è successo, anche per Financial Times è la fotonotizia, perché naturalmente noi diciamo sempre l'Italia è un paese che viene visto incerto, con una situazione politica incerta, a questo punto anche la Germania è abbastanza nel caos, perché sì, si troverà un successore, ma sappiamo che in Germania c'è una grosse coalizione che però precede le ultime consultazioni, quelle dove appunto i Verdi hanno avuto un ruolo molto maggiore. Il cancelliere austriaco è andato al Bundestag a dire: ma perché non fate anche voi una bella coalizione nero-verde come ce l'abbiamo noi in Austria? Quindi insomma c'è incertezza, questo è sicuro, e questo naturalmente sappiamo, e da qui la scelta di Financial Times è anche un problema per la fiducia dei mercati finanziari. Poi si aprirà una corsa alla successione, perché come sempre la politica si aggrappa ai nomi, ai volti, quindi vedremo chi sarà a raccogliere questa eredità, non so se i giornali ne parlano, altrimenti Giulia... Sì, sarà probabilmente un uomo, quindi sarà, fine, ecco, della questa, sì, lunga però parentesi, sì, esatto, femminile della, esatto, Germania. Allora, io stamattina ho intervistato un sindacalista dell'ATAC di Roma sulla pulizia degli autobus, scatenando un putiferio di messaggi che stanno ancora arrivando. Gli autobus e i mezzi pubblici sono in prima pagina anche in Inghilterra. Sì, vero? Johnson ha deciso di fare questa mossa, un po' a sorpresa, perché sembravano tutti focalizzati sulla seconda tranche dell'alta velocità, la HS2, High Speed 2, che lui ha deciso di rifinanziare comunque contro il parere del suo cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro delle Finanze, però per controbilanciare un po' ha detto ieri che per i prossimi 5 anni 1 miliardo di sterline all'anno per i servizi regionali, soprattutto su gomma, quindi gli autobus. Questo naturalmente è per favorire, da una parte per disincentivare l'uso dell'auto, ma soprattutto per favorire tutte quelle persone che una stazione dell'alta velocità non la vedranno mai, e che quindi hanno bisogno di spostarsi con mezzi più tradizionali, un po' più lenti, ma che sicuramente sono più capillari. E quindi ed è in prima pagina su tutti i giornali, dal Times, il Guardian proprio ci fa una mega apertura, perché insomma, se veramente poi bisogna vedere, 5 anni è un orizzonte abbastanza lungo, però intanto vedremo, perché 1 miliardo dovrebbe essere già entro il 2020. Facendo il cambio, a me non sembra che un equivalente annuncio in Italia sia mai stato fatto recentemente, proprio riferimento ai mezzi pubblici, al trasporto locale, che invece sappiamo che ne avrebbero bisogno. Giulia, Irlanda. Irlanda, naturalmente, qui abbiamo anche un audio, sì. Perché ieri ci siamo lasciati dicendo gli ultimi risultati danno lo Sinn Féin primo partito, però comunque sarà un'opposizione importante. Ma che opposizione? Mary Lou McDonald ha cambiato idea, ha detto a questo punto noi vogliamo dei ministri, vogliamo entrare in un governo. Anche lì in che modo vedremo, però sentiamo un audio suo, e tra l'altro noterete la prima parte in una lingua che a me è incomprensibile, che è il gaelico, poi viene l'inglese. Colce Eleg lo starul a town. Glock or Corle Hin Fein Kinnikon Dulles Jacks Channel Altus Surrealtus Enish. The Sinn Féin or Corle has met today. Ecco. E poi dice subito dopo dice parlano tutte in gaelico, ma infatti anche i cartelli si vedono spesso in Irlanda, prima viene il gaelico e poi l'inglese. Comunque dice ci siamo riuniti, questo straordinario risultato che ci rende il primo partito, e tra l'altro partito di centrosinistra, gli altri due sono di centrodestra, conservatori che tradizionalmente hanno governato l'Irlanda. A questo punto noi vogliamo entrare con i nostri ministri nel futuro governo, proprio nelle stanze del potere, ha detto, ci ha preso molto gusto. E vedremo, insomma, perché adesso iniziano naturalmente i negoziati, chissà, una big coalition, non so come si dice in gaelico, all'irlandese. Senti, ci sono anche le primarie nel, come si dice, New Hampshire di cui forse ci vuoi raccontare qualcosa, sì, sui giornali. New York Times e Washington Post fanno tutti e due questa scelta di dividere la foto principale della prima pagina in quattro per far vedere i diversi supporters, quindi c'è chi ha in mano il cartello Biden, chi ha in mano esulta con dietro la scritta Sanders, e poi c'è una ragazza che di fianco ha uno di questi cartelli con scritto Buttigieg. Comunque probabilmente, almeno le previsioni, lo dice USA Today, che mette invece in prima pagina quasi un tributo, così l'ultimo tributo a Joe Biden, il grande vecchio del Partito Democratico, che però secondo USA Today sì, in questo il New Hampshire potrebbe segnare l'uscita forse, ufficiale di Biden, anche perché alle prossime primarie, quelle che ci saranno il 3 di marzo, che tra l'altro uniranno tante primarie, a quel punto dovrebbe esserci anche il convitato di pietra, che è Bloomberg, che aspetta naturalmente di vedere se il suo avversario, tutti e due entrambi dell'ala diciamo più di sinistra del partito, cioè o Bernie Sanders o Pete Buttigieg, con 50 anni di differenza tra i due, saranno il suo avversario principale. Quindi tutti i giornali ne parlano, poi naturalmente c'è il coronavirus. Ecco, leggo dalla scaletta che ogni giorno tu ci passi delle notizie, che c'è dalla Spagna l'annullamento di un importante evento. Sì, doveva essere una delle tante fiere di questo periodo febbraio-marzo, e tra 10 giorni doveva esserci questo gigantesco di questa gigantesca conferenza, magari il nostro Enrico Pagliarini ci sarebbe anche andato, dei mobile, cioè della telefonia cellulare, annullata. È la più grosso, credo, evento di europeo, per quale sì, europeo. Sì, assolutamente. E perché l'hanno annullato? Perché ci sono, la Spagna no, a differenza dell'Italia non ha bloccato tutti i voli, ma è comunque, sembra quasi insomma un rischio che non si vuole correre. Poi insomma in un settore tecnologico ci hanno spiegato per tanti anni che le fiere erano inutili, che si poteva fare tutto in videoconferenza, facciano così, dimostrino che è possibile fare a meno della realtà fisica, che cosa che io non credo. Esatto, non vorrei che diventasse una scelta obbligata, perché questo dal coronavirus, questo non sarebbe bello. Comunque, grazie Giulia, ci risentiamo. Sentiamo naturalmente con te domani. È tutto anche per Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi, redazione, Andrea Roccabella, regia. Ciao da Alessio Morizzi, buona giornata, ci risentiamo tra poco alle 14.